Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi, cari amici, una puntata speciale sulla situazione in Giappone con aggiornamenti dalla redazione, interventi di esperti a commento delle notizie. Qua in studio con me Valeria De Rosa e Cristina Carpinelli. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora Valeria, iniziamo subito dagli aggiornamenti. Sì, allora cominciamo intanto dal bilancio che, come dicevamo anche nel corso del GR, continua come prevedibile ad aggravarsi ogni ora che passa. Attualmente tra morti e dispersi accertati si parla di 6.400 persone. Altre fonti della polizia stimano in un numero complessivo che supera le 17.000 persone, però ovviamente bisognerà aspettare a questo punto di poter raggiungere anche tutte le aree che sono state interessate dallo tsunami. In questa devastazione, una notizia bella per quanto possibile: due sopravvissuti sono stati tratti in salvo dai soccorritori 4 giorni dopo questo terremoto e il successivo tsunami che hanno devastato le coste nord-orientali del Giappone, tra cui una donna di 70 anni estratta viva dalle macerie della sua abitazione e un uomo tratto in salvo in circostanze molto simili, entrambi nella prefettura di Miyagi, che lo ricordiamo è una delle più colpite dallo tsunami successivo al terremoto. Per quanto riguarda il fronte nucleare, dove è massimo l'allarme ancora, cioè è arrivata, battuta dalle agenzie da pochissimo, la notizia che è stata ampliata l'area di evacuazione, una notizia che però in qualche modo noi avevamo già riscontrato, Cristina, attraverso i nostri interlocutori che ormai sono diventati fissi nel corso di questi giorni. Sono persone, tra l'altro, ecco questo voglio dirlo, che hanno dato una grande disponibilità, hanno manifestato grande professionalità in questa emergenza. Parliamo delle persone che lavorano all'ambasciata e anche alla Farnesina, che si sono resi disponibili a qualsiasi nostra domanda e informazione e richiesta di informazioni. Ci hanno spiegato sì che è stato ampliato il raggio di evacuazione attorno alla centrale di Fukushima, stiamo parlando ormai di 30 chilometri, ma soprattutto è stato dato un messaggio chiaro, che poi è arrivato anche a Tokyo e ha gettato nell'allarme moltissime persone, che era quello di cercare di uscire il meno possibile, quindi stare il più possibile a casa. Nel corso della mattinata si sono susseguite un sacco di informazioni che abbiamo cercato di darvi in maniera capillare. Purtroppo alcune volte ci sfugge il senso complessivo di quanto sta accadendo. Comunque, per ora la notizia, l'ultima, è che sono integri i contenitori del nocciolo dei reattori 1, 2 e 3 della centrale di Fukushima 1. Lo hanno confermato, a quanto si apprende, il gestore della centrale, la TEPCO, e l'autorità giapponese per la sicurezza nucleare e industriale. Ecco, questo che state sentendo è Yukio Edano, e ovviamente è stato tradotto dalla televisione pubblica giapponese NHK, e le informazioni che ci stanno arrivano direttamente dall'autorità giapponese per la sicurezza nucleare e industriale, che si sta coordinando a questo punto con la comunità internazionale. Infatti, quanto viene detto a proposito del nocciolo dei reattori da Edano è confermato poi anche dalla AIEA. Il picco di radiazioni è sceso, i reattori 2 e 3 sono scesi, esiste la possibilità che dal reattore 4 non sia fuoriuscita troppa radioattività, quindi stanno facendo tutte le analisi necessarie. Questo è quanto ha spiegato appunto Edano, che ha anche reso noto che nei reattori 5 e 6 dell'impianto, fermi come il numero 4, è stato registrato un lieve aumento della temperatura, quindi anche in questo caso l'indice è di un possibile problema ai sistemi di raffreddamento. E questa, Valeria, è in qualche modo la situazione che noi riferiamo e che vi aggiorniamo, appunto, anche grazie, come dicevo, al sostegno e all'aiuto degli esperti che ci stanno in qualche modo decriptando quanto noi leggiamo sulle agenzie. Certo, diciamo che la situazione è talmente grave che il Giappone ha chiesto aiuto agli Stati Uniti anche attraverso una consulenza tecnica, ed è grave non solo nell'area relativa agli impianti nucleari, in questo caso di Fukushima, ma risulta grave anche in altre parti del Giappone, addirittura fino a Tokyo, dove si è diffuso un certo allarme, anche se poco fa il governo ha cercato di rassicurare dicendo che i livelli di radiazione a Tokyo sono tornati prossimi alla normalità. Sicuramente c'è stato allarme anche dal punto di vista delle ambasciate. Ricordiamo che nei giorni scorsi la Francia ha invitato i propri connazionali a rientrare. Per quanto riguarda l'Italia, l'ambasciatore a Tokyo ha già detto che molti nostri connazionali sono a Osaka e in altre città del Giappone, però proprio l'ambasciatore italiano a Tokyo, lo hai sentito tu, Cristina, sì, poco fa. Ecco, l'ambasciatore italiano a Tokyo, Vincenzo Petrone, ci ha confermato appunto che si sta lavorando, si sta facendo il possibile per sostenere, aiutare tutti gli italiani che richiederanno di voler allontanarsi dal Giappone, ma non solo. Sentite l'intervista che abbiamo realizzato. Cioè, il rischio in questo momento, il rischio che da Fukushima si crei una nube radioattiva che poi si sposti nell'atmosfera, posso arrivare a Tokyo, quel rischio esiste. Non è un rischio che si è realizzato, per fortuna, perché i venti stanno portando tutto verso il Pacifico e non invece verso Tokyo. Tuttavia il rischio esiste e quindi abbiamo dovuto avvertire la comunità che è ancora, la parte della comunità che è ancora a Tokyo, che questo rischio esisteva. Abbiamo dovuto dare dei suggerimenti a questo problema. Ecco, voi come state vivendo, diciamo, queste ore a questo punto? Perché voi restate lì a Tokyo? Noi ci stiamo occupando degli italiani che sono rimasti a Tokyo, uno per uno, stiamo cercando di seguirli, diamo dei consigli, diamo delle indicazioni sul da farsi e soprattutto cerchiamo di tenere traccia dei trasporti e di comunicarlo alle persone che possono voler partire tra oggi e domani. Domani ci saranno 3 voli dall'Italia, perché il problema è che molti treni sono stati soppressi a causa delle riduzioni di erogazione di energia elettrica e quindi cerchiamo di aiutare chi vuol partire ad arrivare all'aeroporto con i treni disponibili e con i mezzi disponibili, ma tutto questo presuppone un continuo monitoraggio delle compagnie di trasporto ferroviario, di trasporto per strada e via discorrendo. Quanti sono le persone che stanno esprimendo il desiderio di andare via, di allontanarsi dal Giappone in questo momento? Beh, noi non possiamo ancora dirlo, noi cerchiamo di convincere tutti quelli che sono nel registrati con noi ad avvertirci quando partono, non tutti lo fanno, ma insomma noi riteniamo che della comunità che risiede a Tokyo ormai la metà circa possa essere andata via, perché quasi tutti hanno già fatto uscire da Tokyo i congiunti, soprattutto chi ha bambini piccoli, e quindi sono rimasti essenzialmente i capi famiglia e neanche tutti, una buona parte di loro si è spostata. Non tutti sono tornati in Italia, alcuni semplicemente si sono spostati in un'altra città per qualche giorno. Ambasciatore, sono andati via anche i musicisti del Maggio Fiorentino? Musicisti del Maggio Fiorentino, alcuni sono già andati via, altri credo che partiranno tra o domani e dopodomani, e mi risulta che il Comune di Firenze e l'Alitalia stanno cercando di organizzare un charter per portare in Italia quelli che resteranno ancora a Tokyo tra giovedì e venerdì. Direi che è importante anche parlare della nostra salute, del rischio radiazioni per la salute. Tra l'altro, Valeria, qualche cosa si è modificato nelle ultime ore? Diciamo che rispetto ai giorni scorsi sicuramente anche il governo giapponese dà più informazioni rispetto al livello di radiazioni che sono nell'aria. Dicevamo prima, per quanto riguarda Tokyo, secondo il governo il livello di radiazioni è prossimo alla normalità. Per quanto riguarda la centrale, invece, per quanto riguarda la zona intorno alla centrale, che cosa è successo? Che oggi in un'ora sono state emesse tante radiazioni quanto una persona può assumerne in 3 anni. E nei giorni scorsi si era parlato di tante radiazioni in un'ora quanto una persona ne può assumere in un anno solo. Quindi è ovvio che questo si sta modificando man mano a seconda di come si evolve la situazione all'interno dei reattori di Fukushima 1. E in linea con noi abbiamo il professor Carlo Lavecchia, capo del Dipartimento di Epidemiologia all'Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e docente di Epidemiologia all'Università di Milano. Professore, buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Buongiorno a tutti. Professore, io ho bisogno subito di un aiuto. Ma com'è possibile quantificare la pericolosità della fuga di radiazione? Così come per un terremoto, noi abbiamo le scale che attraverso un numero ne definiscono la pericolosità. Esiste qualcosa di simile anche per il rischio nucleare. Infatti sui giornali leggiamo di valori Sievert. Ci aiuta un po' a fare chiarezza? E in base a questa scala, qual è il grado di allarme di questo momento? Ma molto basso, perché noi grosso modo in un anno riceviamo dal suolo e dal cosmo dai 100 ai 200 millisievert. Se in un giorno prendiamo 10 volte questa dose, questo fa molto poco, effettivamente è essenzialmente come una dose di esposizione equivalente a 10 anni in più, quindi a 10 giorni in più, quindi è estremamente poco e del tutto trascurabile. Io credo che finché i rilasci saranno controllati, ossia di fatto questi reattori stanno sfiatando o emettendo del vapore compresso, ma finora non è avvenuta nessuna fusione e quindi si stanno sostanzialmente raffreddando. Finché ci saranno questi rilasci controllati, il livello di esposizione sarà così basso da non avere un impatto quantificabile sulla salute. Quindi sostanzialmente si può stare tranquilli. Tutte le misure prese dal governo giapponese, che contrariamente a quelle prese dal governo sovietico a Chernobyl, dove tutto fu organizzato male, mi sembra che in Giappone tutto sia andato invece molto bene, ossia questo ordine, questo consiglio di lasciare le zone immediatamente circostanti è del tutto prudenziale, è dovuto soltanto alla possibilità di una fusione. Che io ritengo relativamente improbabile, perché insomma sta andando avanti da circa 3 giorni e quindi in qualche modo stanno più passa il tempo più possiamo no quasi sì, perché lo stanno raffreddando e quindi è relativamente improbabile. L'incidente di Chernobyl avvenne nell'arco di ore e per avere un incidente maggiore occorre avere una catena di eventi non controllati, quindi sembra che la situazione sia relativamente sotto controllo. Sì, professore, abbiamo Cristina Carpinelli che... Professore, io le volevo chiedere una cosa che mi ha molto colpito. Adesso stiamo vedendo anche persone contaminate che vengono isolate. Ecco, che tipo di contaminazione hanno avuto queste persone? È difficile da dire. Io, per quanto riesco a intuire dai livelli di emissione, al di là dei tecnici che erano dentro, ma le persone fuori dalla centrale non dovrebbero avere danni nei livelli tali da... Quindi lei dice è una questione precauzionale, semplicemente? Sì, del tutto precauzionale. Questo è quanto si riesce a intuire dalle informazioni che abbiamo. Ma professore, è vero che c'è comunque una risposta individuale alle radiazioni, che le donne sarebbero più a rischio degli uomini, i bambini più degli adulti? Dunque, il problema è la carenza di iodio, perché nelle emissioni c'è iodio radioattivo e quindi se una popolazione è in carenza di iodio può assorbire questo iodio emesso dalla centrale e poi mantenerlo per mesi. Questa è una sostanza radioattiva che resta a lungo e può causare danni. Questo è accaduto a Chernobyl. Sì. Quindi il dare pillole di iodio, come fu fatto in Polonia ai tempi di Chernobyl, evitando ogni danno, è una misura estremamente utile, perché uno degli ioni più comuni è lo iodio, e semplicemente somministrando iodio si evita questo assorbimento. Dopodiché io credo invece che per la radiazione globale assorbita finora non dovrebbero esserci danni. C'è un concetto che però è importante, sì, grazie, importante ricordare: sia Hiroshima e Nagasaki sia Chernobyl, i danni e i morti furono essenzialmente per l'esposizione acuta e violente, cioè si verificarono nei giorni, nei pompieri e poi nei mesi, nei ripuratori successivi all'incidente a Chernobyl, e si verificarono subito Hiroshima e Nagasaki e nell'arco dei mesi successivi per malattie da raggi. I danni successivi rispetto ai danni immediati sono estremamente piccoli, cioè anche per esposizioni massive come a Hiroshima e Nagasaki, in realtà la mortalità nei successivi 60 anni è aumentata dell'1 per 1000, cioè ci sono stati 200.000 morti subito, sì, ma su 1 milione di persone ci sono stati 1000 morti in più nei successivi 60 anni, a un'esposizione da bomba atomica. Quindi ciò che la gente deve capire è che il danno da radiazione è in genere immediato. Se uno non ha una malattia da raggi subito nell'arco dei mesi successivi, i rischi successivi sono relativamente limitati o comunque molto più limitati di quanto la gente tema. Ecco, professore, buongiorno, sono Valeria De Rosa. Io ormai credo che questo concetto sia abbastanza chiaro, che comunque e poi i danni successivi sono sicuramente di minore entità, però le volevo chiedere questa cosa. Le emissioni sono controllate, però per quanti giorni è possibile sopportare per una persona queste emissioni controllate, e poi ci saranno anche dei risvolti per quanto riguarda quello che cade sul terreno e nell'acqua? Vabbè, quello che cade sul terreno e nell'acqua non è un problema maggiore, perché poi quello che succederà sarà che per alcune settimane o mesi non si mangerà la verdura di quei terreni e dopo il problema si risolve. Quanti giorni? Se le emissioni sono pari alla quantità giornaliera moltiplicata per 10 volte, assorbire alcuni giorni questo livello di radiazione non è drammatico, cioè come se noi avessimo 10 giorni più. Quindi bisogna salire di ordine di grandezza per avere danni anche quantificabili in giorni. Bisogna dire che poi queste nubi vengono disperse, quindi di fatto questo livello 10 volte superiore diminuisce subito, anche se andassero sulla terraferma, poi si diffondono e diminuiscono. Quindi, professore, le condizioni meteo possono influire sulla diffusione delle radiazioni, sulla modificazione a livello locale? Sì, hanno una grossa influenza. L'altro punto è che in caso di precipitazioni, insomma, la gente non deve stare con i vestiti bagnati addosso, cioè in sostanza quando si rientra in casa, se si è presa pioggia che contiene materiale radioattivo, bisogna lavarsi e lavare i vestiti, ma sono misure relativamente banali. Tra l'altro c'è una notizia proprio a questo proposito, a proposito degli aiuti. Abbiamo anticipato le notizie. Che possono arrivare dagli agenti meteorologici. I venti stanno per ora spingendo la nube radioattiva fuoriuscita dalla centrale di Fukushima verso l'oceano, quindi via dalla terraferma giapponese, riducendo così il pericolo di contaminazione nella regione. Adesso è tempo di andare a sentire i mercati. Professor Lavecchia, grazie per essere stato con noi, ci sentiremo presto per magari ulteriori aggiornamenti. Intanto grazie per essere intervenuto e per la sua disponibilità. Essere e benessere. Siamo tornati insieme per questa puntata speciale sulla situazione in Giappone. Qua in studio con me Valeria De Rosa e Cristina Carpinelli. Nel corso della trasmissione aggiornamenti dalla redazione, interventi di esperti a commento delle notizie. E Cristina, occupiamoci anche dei bambini. Terremoto e tsunami hanno sconquassato anche famiglie, quindi bambini che non trovano punti di riferimento, i loro genitori, i loro nonni, e quindi si sono così in balia di se stessi e della paura che questo genera nei bambini. Pensate a un bambino che, dopo aver sopportato, vissuto sulla pelle questa grande paura, non trova più la sua mamma. Allora in linea abbiamo Filippo Ungaro di Save the Children, che è la ONLUS che poi in questo momento è in grado di dare informazioni sui bambini giapponesi, adesso dovrebbero essere intorno ai 70.000, quindi una cifra impressionante, che hanno perso i contatti con i genitori. Allora, innanzitutto, buongiorno Filippo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io ti direi, innanzitutto ti do la parola in questo momento, perché sei forse la persona che meglio di tutti può raccontare cosa sta succedendo. Sì, in realtà mi permetto di correggerla, sono circa 100.000, tra i 70 e i 100.000 i bambini sfollati, di questi sicuramente una buona parte, ma è impossibile stimarla in questo momento, potrebbero essere separati dai loro genitori, dalle loro famiglie. Chiaramente in questo tipo di situazioni i bambini sono assolutamente più vulnerabili. Se decide lavora nelle emergenze di qualsiasi tipo, sia in caso di conflitti ma anche di catastrofe naturali, da decenni, e chiaramente noi lo vediamo sempre, i bambini soffrono ovviamente più degli adulti, questo ovviamente in termini generali. Certo. Ci sono dei problemi ovviamente pratici, chiaramente parliamo di 100.000 bambini circa che sono sfollati, quindi perdono in qualche modo tutto il loro piccolo grande mondo, ecco, la casa, Filippo, gli affetti, sì. Nello specifico, cosa state facendo voi per cercare, se si può dire, di attutire un po' questo trauma profondo su questi bambini? Intanto va detto che Sevicino è presente in Giappone da diversi anni, in questo momento ci sono circa 45 persone che lavorano sull'emergenza e stiamo allestendo dei centri a misura dei bambini, che sono sostanzialmente delle aree protette dove vengono accolti i bambini, dove vengono protetti, dove possono stare in sicurezza e dove viene offerto anche e soprattutto un supporto psicologico per cercare di contenere il più possibile questo enorme trauma che hanno vissuto e che stanno continuando a vivere, perché le scosse di assestamento continuano e poi c'è questa enorme minaccia ovviamente delle radiazioni e delle centrali nucleari. Chiaramente i bambini che rimangono soli, che vengono separati dalle proprie famiglie, noi avviamo immediatamente una ricerca e un rintracciamento dei familiari per cercare appunto di ricongiungere il più presto possibile questi bambini, ecco, con le proprie siete famiglie. Già riusciti a ricongiungere bambini e famiglie con le loro famiglie, con il loro papà e la loro mamma? Guardi, in questo momento non le so dare una risposta precisa, è probabile che già dei casi siamo riusciti già delle famiglie siamo riusciti a rintracciarle e riunire dei bambini. La situazione, come capirà, è molto difficile, immagino, molto complicata. Abbiamo questa mattina la notizia di migliaia che sono in fuga da Fukushima appunto a causa delle radiazioni, quindi questo enorme problema, anche questa minaccia delle radiazioni, questa paura delle radiazioni ovviamente complica enormemente anche le cose, perché mancano anche i punti di riferimento per, certo, l'allestimento, certo, dei campi di sfollati. Filippo Ungaro di Save the Children, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e tra l'altro, Nicoletta, Filippo in qualche modo sollevava il tema della comunicazione, in questo caso ai bambini, bisognerà spiegare a questi bambini cosa è successo, perché in un momento così drammatico non hanno la madre vicino, insomma, anche in casi drammatici come questi parlare in un certo modo può, certo, essere fare la differenza, perché sono esperienze che segnano per tutta la vita. Filippo. Assolutamente sì, noi questo lo riscontriamo sempre, ovviamente bisogna ovviamente parlare con i bambini, bisogna filtrare in qualche modo le informazioni che vengono anche dai grandi, dai media, dai mezzi, certo, di informazione, bisogna aiutarli, ma bisogna ristabilire il prima possibile delle sicurezze per, ecco, questi bambini, certo, all'interno. Non si può parlare naturalmente di quotidianità, ma dare dei ritmi che siano più simili possibile a quelli che hanno lasciato. Grazie Filippo per essere stato con noi. Ma in linea con noi abbiamo, a proposito di comunicazione, un sociologo della comunicazione, il professor Marco Lombardi dell'Università Cattolica di Milano, autore di un volume, Comunicare nell'emergenza, che è tra l'altro quello che i giornalisti di tutto il mondo stanno cercando di fare in questo momento. Anche se tutto avviene più velocemente della nostra capacità di realmente essere in controllo di ciò che diciamo, su ciò che sta avvenendo. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati a tutti, anche se in queste occasioni. Professor Lombardi, cominciamo a dire che noi occidentali abbiamo visto un modo di comunicare l'emergenza da parte dei giapponesi molto diverso da ciò a cui siamo abituati. Nessuna scena di morte, di strazio, di dolore, gli eventi, le parole sugli eventi, ma molto controllo sulle immagini. C'è un vantaggio in termini di comunicazione dell'emergenza fare questa che chiamerei una scelta di campo e che probabilmente è anche legata alla cultura specifica di questo popolo? Sicuramente è stata adottata una scelta strategica. Comunicare in situazioni di emergenza è sempre una scelta strategica. L'obiettivo della comunicazione in queste situazioni è massimizzare la possibilità della popolazione di cavarsela, sì, dettelo molto, molto, certo, semplicemente. E quindi la drammaturgia che si usa pesa molto. Ora, consideriamo in ogni caso anche il fatto, rispetto al Giappone, lei ha sottolineato l'aspetto culturale, vero, nella comunicazione centrale, ma anche il fatto che i media stanno assistendo, quindi dal di fuori a qualche cosa che sta accadendo in Giappone, i giapponesi fanno parte dell'evento. Questo già presuppone non solo due modi di vedere, ma evidentemente anche delle strategie molto diverse. Sicuramente, ancora una volta, per tanti versi, e non solo per quello della comunicazione, il Giappone è un esempio. Teniamo presente che una cosa che sfugge alla drammaturgia dei nostri media spesso, che un evento come quello a cui abbiamo assistito avrebbe completamente distrutto nelle radici qualunque altro paese che non fosse stato il Giappone ad essere colpito. Sì, okay? Quello che i giapponesi hanno dimostrato è che si può sopravvivere alla forza di un terremoto di quella gravità. Questo è un punto fondamentale che sfugge alla drammaturgia occidentale, che è presente invece nei racconti dei giapponesi, i quali stanno appunto spiegando alla gente che cosa fare per sopravvivere, con una forma anche di razionalità, sì certo, ma soprattutto di competenza prese attraverso una formazione che i giapponesi hanno, vivendo in quel territorio, fin da quando sono bambini. Cioè hanno imparato a convivere col rischio come una quotidianità sempre possibile in qualunque momento, e a partire da questa consapevolezza diffusa si sono costruite tutte le strategie, in particolare quelle comunicative, da qui il risultato. Professor Lombardo, buongiorno, sono Valeria De Rosa. Le volevo far ascoltare la testimonianza di un ragazzo, di un italo-giapponese che lavora lì e che ormai è diventato praticamente un nostro amico, lo stiamo chiamando in continuazione in questi giorni, perché nel suo racconto di queste due giornate, lui vive a Tokyo ma si è spostato per paura, ci sono un paio di spunti sui quali poi vorrei farle anche una domanda, sentiamolo. Siamo nati via da Tokyo, abbiamo messo insieme un po' di informazioni provenienti un po' da internet, un po' da amici, eccetera eccetera, e niente, fortunatamente che abita qua a Fukuoka, che a Kyushu, giù nel sud del Giappone, praticamente quasi a 1500 km dalla centrale, diciamo. Volevo capire se tra nella cerchia delle persone che tu conosci tanti hanno fatto come voi. Sì, stanno facendo più che hanno fatto. Abbiamo sentito un po' di persone, un po' di scetticismo in alcune, anche la famiglia di mia moglie, però adesso cominciano o ad andare verso Osaka o verso Kyoto, comunque allontanarsi da Tokyo verso sud. Quindi sì, comincia a esserci questa tendenza tra i nostri conoscenti. I mezzi di informazione restano ancora cauti? Sì, l'informazione qua, guardando l'informazione ufficiale qui, anche in televisione, quella che invece io posso vedere sui giornali, per esempio italiani, è abbastanza diversa. Posso immaginare che comunque all'estero ci cerchi un po' di anche enfatizzare, fare un po' di sensazionalismo, però sicuramente la situazione è gravina. La situazione gravina ci racconta Andrea, il nostro amico, sì, del Giappone. Adesso noi ne parliamo subito dopo. Le informazioni sul traffico, a tra poco. Essere e benessere. E siamo qua, professor Lombardi, abbiamo sentito Andrea, tra l'altro italo-giapponese, sì, ci racconta proprio il Giappone attraverso i suoi occhi, la sua cultura. Io vorrei sapere da lei, che è un esperto di comunicazione, quali sono i messaggi interessanti che Andrea ci ha passato direttamente o anche un po' tra le righe alcuni, no? Ha detto diverse cose interessanti, a terminare con la sua dichiarazione: la situazione è gravina. Ora, questo tipo di definizione, dal mio punto di vista, è interessantissima. Chiediamolo a qualunque europeo che sta leggendo i nostri giornali, assistendo alle nostre comunicazioni: gravina è spaventosamente grave e terrificante, direbbe probabilmente un europeo, non gravina. A sottolineare quel sensazionalismo che Andrea stesso ha evidenziato quando dice: posso leggere i giapponesi, posso leggere gli europei. Ripeto, anche un sensazionalismo che ci sta, se lo leggiamo consapevolmente, per la distanza che fa sì che ci siano delle strategie interne al Giappone ed altre esterne. Sì. Attenzione, anche i media occidentali alle loro strategie. Riconfrontiamoci magari fra qualche mese per capire in che modo si è inventata una seconda Chernobyl dopo il Giappone per impattare sulle scelte nucleari, ma in questo momento non voglio aprire questo discorso. L'altro aspetto da considerare, che dobbiamo considerare noi, Andrea dice: ce ne cominciamo a andare da Tokyo, i giapponesi cominciano ad andarsene da Tokyo. Le comunicazioni ufficiali, con molta obiettività, informano che c'è la possibilità, qualora il rilascio aumenti, di una contaminazione della capitale a circa 250 km a sud, come sappiamo, dalla centrale. Ora, la questione che dobbiamo avere in testa, sì, non è evacuare sì o evacuare no. Ciascuno se ne va, se corro un rischio dove sta, detto molto semplicemente. Ma la questione è molto diversa, è del come si fanno le cose, e questa differenza non possiamo non notarla. Allora, distribuzione di acqua e di cibo. Noi abbiamo in una settimana due immagini contrastanti per distribuire la stessa cosa in situazioni gravi di disagio, e sono il lancio di bottiglie d'acqua e di pani e di pane sulla folla siepata al confine tunisino e le code lunghe chilometri nelle piazze giapponesi per ricevere una bottiglia d'acqua e un pezzo di pane. Sì. Allora, si stanno due immagini che si commentano sono da sole. Sono due immagini che si commentano da sole, che hanno tutte la stessa motivazione, dobbiamo risolvere un problema, ma che ci fanno vedere che la discussione che dobbiamo affrontare non è sulla soluzione del problema, ma come si propone di risolverlo. È quello che i giapponesi ci stanno indicando. La drammaturgia non è abbandonare Tokyo, il discorso serio è come si abbandona Tokyo. Professore, grazie per essere stato con noi e soprattutto per questo spunto che è interessante, queste due immagini che sono facilmente recuperabili nella testa di ciascuno di noi e che ce la dicono lunga. Professor Lombardi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Prego, grazie a voi. E il professor Lombardi diceva come si sta organizzando il Giappone per risolvere questo problema e sicuramente hanno qualcosa da insegnarci. Noi però vi possiamo aggiornare su come si sta organizzando l'ambasciata d'Italia a Tokyo per raccogliere tutti i connazionali. È stata organizzata la partenza di un autobus oggi da Niigata diretto a Sendai nel nord-est, dove si trovano una quindicina di connazionali per trasferire chi di loro lo desiderasse in altre zone più sicure del paese. Questo è quanto ci ha comunicato la Farnesina. Possiamo parlare a questo proposito, Cristina, di un caso particolare che è quello dell'orchestra e del coro del Maggio Fiorentino che sono in Giappone in questo momento. Certo, cioè, e qui tra l'altro secondo me si potrebbe aprire, ma non lo possiamo fare in questa sede, tutto un discorso su come vengono percepite le istituzioni, nel senso che quello che noi abbiamo avuto anche come elemento così dal Giappone è anche un rispetto assoluto per quanto veniva detto dalla voce istituzionale del Premier piuttosto che di altri esponenti del governo, quindi cioè, una grande fiducia, esatto. Adesso io non aggiungo altro, però nel caso italiano, nel caso del Maggio Musicale Fiorentino invece, quindi questo gruppo di musicisti che si trovava in Giappone per eseguire diversi concerti, tra cui quello per le celebrazioni del 150° anno dell'Unità d'Italia, quindi il 17 marzo, questi musicisti a un certo punto si sono spaccati, cioè l'orchestra si è spaccata in due. Chi voleva andare via subito e chi invece si è fidato delle istituzioni italiane e quindi ha detto no, restiamo, ci stanno rassicurando, noi restiamo. Chi si è allarmato soprattutto? Si sono allarmati soprattutto i familiari dei musicisti che sono in Italia, che quindi dall'Italia avevano una percezione diversa di come stavano andando le cose probabilmente. Noi abbiamo raggiunto Paola Bonora, che è moglie di uno dei musicisti a Tokyo. Nonostante il fatto che abbiano comunicato l'orchestra ieri nel pomeriggio che Rienzi ha detto che l'orchestra deve rientrare, l'hanno annunciato i tre giornali, i nostri musicisti sono ora chiusi in albergo con il loro medico che gli ha detto di non uscire e sono previsti voli soltanto per rientro per domani mattina. Ecco, voi come familiari delle persone che sono in questo momento all'interno del Maggio Fiorentino e che si trovano a Tokyo, cosa state facendo, come vi state muovendo? Ci stiamo muovendo intanto creando dei siti e dei punti di comunicazione dove noi tutti riusciamo ad avere informazioni rapidamente per tenerci informati l'uno con gli altri. So che c'è, io parlo da Milano, però la maggior parte dei parenti dei musicisti ovviamente sono a Firenze. Alle 11.30 di stamattina ci sarà una riunione al Maggio Musicale Fiorentino. Si troveranno tutti i parenti e lavoratori del Maggio che sono a Firenze per parlare di questo, incontrarsi per affrontare questo problema. Io so anche che alcuni dei musicisti questa notte per noi e quindi diciamo ieri per loro hanno provato a lasciare Tokyo, sono partiti un piccolo gruppo di 4-5 persone, ha tentato diciamo in un modo autonomo di staccarsi dal gruppo e rientrare in Italia. Ma questa cosa purtroppo non ha funzionato, sono dovuti ritornare in albergo e quindi insomma tutti i musicisti aspettano di partire in una situazione poco tranquillizzante. Allora, noi siamo arrivati praticamente in chiusura e sì, d'altra parte la lettura, io lo leggo anche dai messaggi che sono arrivati a commento dell'intervento dei nostri ospiti, ascoltatori spaccati. C'è chi si fida dell'esperto, chi vede e legge nelle parole dell'esperto un modo per ingannare. La situazione è questa, abbiamo cercato di dare gli aggiornamenti e di commentare in diretta le notizie insieme alle colleghe, insomma siamo stati un trio di donne che ha monitorato per Radio 24 per gli ascoltatori di Essere Benessere la situazione sul Giappone. 20 secondi per salutarci o forse per lanciare altri aggiornamenti. Le ultime notizie che possiamo dire è che anche nel mondo comunque si muove qualcosa per quanto riguarda la Germania. Dopo la chiusura di due vecchie centrali, la cancelliera Merkel chiude temporaneamente 7 vecchi reattori, e anche la Russia dà il via a tutta un'analisi sulla situazione delle centrali nucleari nel paese. Allora, un saluto da Nicoletta Carbone, da Valeria De Rosa e da Cristina Carpinelli. A domani per noi. Essere e benessere.